24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ha giocato? 20 euro. Su? Amato. Penso che vincerà sicuramente. Giuliano Amato è il favorito ed è quotato 1 a 4. Se punto 20 euro posso vincerne 80. I bookmaker inglesi mettono lo zampino nel Toto Quirinale. Con tutti i nomi che si fanno in questi giorni sul successore di Giorgio Napolitano, tanto vale per qualcuno puntarci sopra qualche euro. Ma chi sono i favoriti? Abbiamo Prodi a 15, D'Alema a 40, Mattarella a 8. Tre favoriti fino a Chiaro abbiamo visto a 10. Casini anche, diciamo, cioè, su Amato, e subito dopo viene Casini. Direi che in calo, dopo un primo momento di interesse da parte di bookmaker, c'è proprio Stefano Rodotà, che invece è indicato da una parte politica come candidato forte. Ma c'è anche Beppe Grillo. Sì, cioè, sì, Beppe Grillo, certo, logicamente sfavoritissimo. Vengono molte persone a scommettere sul Presidente della Repubblica. Sì, dall'altra settimana a questa settimana è aumentato di un buon 20%. È strano, però su questa cosa proprio ci si stanno proprio, diciamo, gli piace. L'hai scommesso? Io sì. Chi? Su Amato. Onorevole Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera, buongiorno. Lei, per chi scommetti, scommettitori mi sa che sono lontani, dal vero. Buongiorno, questa è una delle scommesse più difficili anche per gli scommettitori. Sì, E lei per chi scommette? Stamattina su Mattarella, perché potrebbe essere il candidato proposto dal segretario. Io, diciamo, scommetto sui candidati che propone il segretario, e si dovrebbe partire da Mattarella. Si dovrebbe partire, che vuol dire? Lei voterà l'assemblea è oggi. Sì, no. Prima dell'assemblea. No, prima l'assemblea, ma insomma i giornali oggi li abbiamo letti tutti e sono notizie che filtrano con la loro attendibilità. Lei quindi voterà il candidato di Renzi? Oppure dipende? No, guardi, io penso che mai come in questo momento bisogna chiedere al partito di essere unito, il segretario si sta assumendo una responsabilità, è giusto votare compatti il nome che indicherà il segretario. Ma sarà il candidato del partito o un presidente del Nazareno, secondo lei, alla fine? No, io penso che sarà il candidato che il principale partito presente in Parlamento propone agli altri gruppi, poi ognuno prenderà le proprie decisioni. Sì, d'accordo. Senta cosa ci ha detto il vice segretario del PD, Deborah Serracchiani. Si potrebbe mai fare il Presidente della Repubblica senza Berlusconi? Io credo che non si dovrebbe e potrebbe fare mai senza alcuna forza politica. No, ma mi risponda alla domanda. No, io sono convinta che Berlusconi parteciperà alle elezioni del Presidente. Quindi senza di lui non si può fare, diciamo. I numeri sono abbastanza chiari. Insomma, mi sembra, vice segretario del PD, mi sembra molto precisa, no? Che dice? Sì, niente presidente senza il sì di Berlusconi, quindi Mattarella va benissimo, indicazione, ma se poi Berlusconi non lo vota, Mattarella non va lontano, o no? Dovrebbe trarne a quel punto le conseguenze chi lo propone. Guardi, il rapporto con gli altri partiti, soprattutto rispetto al patto del Nazareno, è un rapporto costruito soprattutto da Renzi. Quindi un rapporto personale quasi. È un rapporto costruito da Renzi e il rapporto su cui ha costruito questa sua esperienza di governo sulle riforme costituzionali, io non penso che sia mediabile da nessuno. Capiremo nelle prossime ore se questo rapporto è un rapporto che va oltre. D'accordo, però senta, parlando più chiaro, se Berlusconi non vuole Mattarella, Mattarella parte bruciato, cioè uno lo può indicare, diventa difficile. Ho sentito la Serracchiani, cosa vuol dire? Si riducono i voti disponibili, certo. Si riducono i voti disponibili e diventa a rischio. Quindi, se non ci sarà il presidente alla quarta votazione, quello proposto da Renzi, Renzi potrebbe incartarsi? Questo non sta lo dicendo. So. Guardi, è molto difficile fare analisi. Il Parlamento è lo stesso del 2013, quindi i meccanismi possono essere simili. Cioè 101? Ma diciamo, questo sta dicendo? No, un'epoca no. Stiamo entrando in zona 101. La quarta votazione, le ricordo che la quarta votazione di allora, sì, anche se fu Prodi, l'equivalente di oggi è Marini. Mm. E quindi andiamo per gradi, ora partiamo da prima di oggi, la quarta, e vediamo cosa succede. Sì, però io sono colpito da quello che ha detto la Serracchiani, perché mi pare che è difficile immaginare un presidente che non sia figlio di quell'accordo, ma mi dica se sbaglio, perché voglio capire se sbaglio. No, è difficile pensando agli accordi che hanno preso sulle riforme. È evidente che se non c'è quell'accordo, il cammino delle riforme potrebbe subire delle modifiche. Senta, onorevole Boccia, lei all'inizio era neutro, insomma quasi favorevole a Renzi, adesso è molto ostile. Perché? Guardi, io distingo la critica al Presidente del Consiglio su alcuni provvedimenti, sì, come è noto io non sono d'accordo, non sono stato d'accordo sul decreto Ilva, non mi piace per niente. Che cos'è che gli rimprovera soprattutto, allora, per essere chiari? Io gli rimprovero alcune scelte che non hanno nulla a che fare con la visione riformista e di sinistra della società italiana. Si possono fare scelte di politica economica e il Presidente del Consiglio le può fare, e però se vanno contro i tuoi principi. E cioè, ma mi fa degli esempi, che così, insomma, se capisco bene, per lei il governo Renzi è un governo che parla, non fa, se fa pasticci, ho capito? No, il governo no. Renzi è un governo che parla, perché questo non può negarlo nessuno. E fa a volte delle cose condivisibili, penso agli 80 euro, e a volte non fa delle cose che andrebbero fatte, tipo? Penso alla web tax, certo. E a volte fa dei decreti sbagliati, penso al decreto Ilva. In questo momento rischiano di portare i libri in tribunale 200 fornitori dell'indotto, perché si è pensato al ramo d'azienda attivo dell'Ilva e non si è pensato a migliaia di lavoratori dell'indotto. Fa un decreto sulle popolari che assolutamente non tiene conto del capitalismo italiano, territoriale, del radicamento territoriale, molecolare, poi una... familiare, e queste cose vengono fatte senza una discussione, senza un confronto, e penso che, insomma, il nostro partito non è Forza Italia, è un'altra cosa. E se, cioè, non è Forza Italia nel senso che non è un partito padronale, diciamo così. Anche perché ci sono banalmente centinaia di migliaia di persone che alzano e abbassano la sala cinesca dei circoli. Non è possibile pensare che si decida in una stanza e si fanno le cose e poi vediamo se vanno bene. Quindi la Merkel, le banche popolari se le ha tenute ben strette, cioè le ha difese, le ha tirate fuori, insomma, dai problemi legati alla ristrutturazione del sistema bancario. Guardi, le banche popolari, come tutte le banche, sono... naturalmente andavano riformate, però... Non c'è dubbio, vanno riformate. Certo. Soprattutto se sono quotate, hanno deciso di andare in borsa, ma se non sono quotate tu non puoi pensare che il risultato del capitalismo territoriale italiano debba aprirsi all'improvviso un fondo di investimento che è a Hong Kong o a Shanghai. Ma chi te l'ha chiesto? Nel senso che, perché dovremmo farlo se il sistema funziona? E poi dire che questo è l'errore più grave per adesso, o l'Ilva, secondo lei? O la web tax? No, lei lo sa che la web tax troppo tardi. Mi sembra che stia nel mondo, insomma, sta facendosi strada anche una riflessione. Quando ne parlavamo io e lei per radio, eravamo tra i pochi a farlo. Sì. Oggi penso che, insomma, se ne parla in tutto il mondo, e più tardi la facciamo, più sarà la ricchezza accumulata dai grandi elusori fiscali. Senta, ma è vero che lei ha in mente di candidarsi in Puglia come presidente della regione? No, assolutamente no. No, non è vero? No, sicuro? No, dato la disponibilità, ma è una cosa che valuteremo con Emiliano, per guidare la lista del PD, per dare un contributo al partito. Insomma, qualche cosetta c'è allora sulla Puglia. Senta, onorevole Boccia, intanto Tsipras ha vinto in Grecia, ha fatto un governo con la destra che già, come dire, cancella le privatizzazioni previste. Sarà un colpo grosso in Europa, la Grecia? Io penso che servirà a discutere sulla gestione del debito, dei debiti sovrani, e da questo punto di vista servirà molto lo scossone Tsipras. Su alcune scelte ho qualche dubbio, francamente. Però sarà un alleato per Renzi e Hollande, insomma, per rottamare l'Europa del rigore puro. Se avessimo voluto rottamare l'Europa del rigore puro, non avremmo dovuto scegliere Juncker a capo della Commissione e Schulz a capo del Presidente. Sono stati due errori, secondo lei? Sì, l'ho sempre detto, perché hanno restaurato un'Europa che non funzionava già più e che in realtà andava in un'unica direzione, che era quella vista dalla Merkel. Fatto quell'errore politico, oggi l'unica strada che abbiamo è quella di parlare del merito, e la gestione dei debiti sovrani va cambiata, va modificata. Se Tsipras riesce a far rinegoziare il suo debito, cosa che io condivido, si apre una nuova stagione. Cioè, Buttafuoco vuole fare una domanda, io volevo solo sapere, Prodi lei lo dà fuori? Guardi, al Colle mai nessuno è fuori non vuol parlare, dica. Buongiorno. Buongiorno. Più che una domanda, vorrei chiarito un fatto. Prima lei faceva riferimento al caso Ilva. Siccome è stato presentato da Renzi come, insomma, un capolavoro di riuscita, esattamente che sta succedendo? Ma io non so se il Presidente del Consiglio abbia messo le mani su quel decreto. Penso di no, per come è scritto. Cioè, troppo male? Diciamo che non è scritto bene. Perché... Vabbè, è troppo male, non è bene. No, mi dica lei, radioascoltatori che ci seguono, sì. Se tu decidi di salvare un'azienda come Ilva e poi all'improvviso trasformi quell'azienda in un'amministrazione straordinaria per separare i doveri, cioè le bonifiche, dal ramo attivo dell'azienda, e te ne, diciamo, ignori, te ne freghi delle migliaia di lavoratori dell'indotto, perché dalla mattina alla sera quelle imprese che sono fornitori di Ilva si ritrovano nella lista dei creditori di un'amministrazione straordinaria. Il risultato è che gli si abbassa il rating, le banche a quei fornitori non danno più credito. Vabbè, è scritto malissimo. Mario, c'è una domanda anche tu? Sì, un gioco. Facciamo fiction applicata alla politica. Tanto le cose stanno più o meno così. Ma non ti pare surreale che potrebbe verificarsi uno scenario in cui noi abbiamo Mattarella opposto a Prodi? Sarebbe abbastanza surreale, però al momento non è la questione, diciamo, ancora. Prodi non è candidato e Mattarella forse lo vedremo, insomma. Beh, potrebbero candidarlo i grillini, eh? Se dovessero candidarlo, sai, cioè, se loro al primo colpo votano Prodi e voi votate Mattarella, noi abbiamo uno scontro parlamentare tra Prodi e Mattarella, cioè una cosa mai vista. Non sarebbe un bel vedere. Grazie onorevole Boccia, ci sentiremo ancora nei prossimi giorni. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Allora, in attesa della prima votazione in Italia, parliamo ancora di Grecia, di Europa, partendo da quello che dicono Grillo e Tsipras. Riconosciamo gli obblighi della Grecia di fronte alle istituzioni europee e ai trattati europei. Questi trattati prevedono alcuni obiettivi fiscali che vanno rispettati, ma non le misure per rispettarli. Siriza rispetterà tutti gli obblighi, ma non ciò che ha firmato il governo precedente. L'austerità non fa parte dei trattati. Abbiamo fatto come Tsipras, abbiamo fatto come gli spagnoli, andiamo lì e diciamo stiamo nell'euro e discutiamo il debito. Volevamo fare così, abbiamo portato 7 punti, e se ve li ricordate 6 erano condivisione del debito con l'Eurobond. Un'unione deve condividere i debiti, non solo i crediti, anzi soprattutto i debiti. 2, via il fiscal compact. Questa gente qua andrebbe processata con un piccolo processino, come dicono dei luminari.

si confondono con la gente che non ci sente e non ci vede più. Passami vicino. La playlist di Pietrangelo si arricchisce di un'altra perla? Perché il filosofo oggi in metropolitana ha spiegato il rumore che deriva, caro Mario, dal silenzio. What? Perché ha spiegato questo concetto, che è tutta una fatica sprecata restarsene zitti, non ci si può trincerare nelle bocche chiuse a voler mascherare le emozioni e quindi i desideri, la rabbia, l'ansia, perché si viene sempre svelati per tramite dell'unico passaporto che ci è dato in dote, che è lo sguardo. E oggi la metropolitana sferragliava spezzettando i riflessi di quella che Omero, e l'ho visto perché lo leggeva un ragazzo che preparava un'interrogazione, chiama aurora dita rosate. E il rumore del silenzio, dunque, e il filosofo lo spiegava indicando tutto intorno ai pendolari, è negli occhi che stanno lì a guardare e non si stancano di cercare. Occhi che seguono nel sorgere questa volta rispetto alla bellissima canzone di Mimmo Locasciulli, il sole che fabbrica la giornata senza mai stancarsi di trovare. Se ne andranno via lontano, occhi che corrono più di un aeroplano, occhi che atterreranno sulla tua mano. Sciogli la corda. Sei, che regia, c'è una novità? Siete dei... la vera bolla. Questa è la bolla. Sono Mario. Le bollicine. Siete oggi inqualificabili. Bollicine, candeline per Mario Secchi con la voce più sexy della radio. Sì, come no. Oramai c'ha gli proprio gli stuoli di. Che compie di, però pochi. Di ammiratrici che scrivono che voce pochi. Sexy. Siete due paraculi pazzeschi. Facci sentire la voce sexy con la tua bolla di oggi. Bolla con bollicine, dai. Allora, già era imbarazzante tutto questo, già sto invecchiando a ritmi esponenziali. Guarda, un anno per volta anche tu, guarda, per quanto tu sia altri, importante. Appunto. Vabbè. Dai, bolle! Pagherete caro, pagherete tutto. Allora. Noi dobbiamo dare un segnale forte alla destra. Votiamo un simbolo dell'Italia Unita. Un nome a cazzo? Sì, Garibaldi. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Garibaldi. Allora, bisognerebbe farne una all'anno di elezione del Presidente della Repubblica, perché è divertentissimo al di là di tutto, o anche tragico potrebbe essere per qualcuno, insomma, comunque, la comica non manca. Il Presidente ancora non c'è, che succede? Si sono incartati, molti ascoltatori, amici, insomma, gente che incontri, chiedono perché è importante questa storia della quarta votazione. Ora bisogna quindi spiegare perché la faccenda è davvero importante e perché il quarto scrutinio in tutte le elezioni del Presidente della Repubblica rappresenta un passaggio chiave. La storia è messa così: un presidente da due terzi per ora non c'è, quindi nelle prime tre votazioni non si fa questo tipo di elezione, è evidente, e ce n'è uno che può prendere i famosi 505 voti, o al meglio si sta cercando di trovarne uno, ma il nome deve essere buono subito per il quarto scrutinio. Siamo inondati da Guarino for Presidente. Facciamo Guarino, se prende 500 voti per me va benissimo. In fondo c'è solo 92 anni. Ma giovane di spirito. Molto. E il quarto scrutinio quindi serve perché? Perché se Renzi propone un suo nome, come è logico, e fallisce al quarto scrutinio, questo poveraccio poi non passa, viene impallinato e così via, è chiaro che si aprono le porte per un presidente proposto da altri e non da lui, o comunque per un presidente di forte compromesso. Non solo, ma se fallisce al quarto scrutinio, i parlamentari cominciano a correre a briglia sciolta, cosa che già tra l'altro è parzialmente in corso. E dunque la tenuta dei gruppi parlamentari diventerebbe impossibile. A quel punto, se tu non tieni i gruppi parlamentari, se non sai più chiaramente che chi vota chi e come, eccetera, può materializzarsi benissimo un presidente votato dalle opposizioni con il voto dei dissidenti dei vari gruppi. Cioè, quello che non ti aspetti. Bene. Chiaramente. Quindi, in ogni caso, aggiungo, Renzi è obbligato a non fallire, perché se manca il presidente, parliamoci chiaro adesso, gli esiti finali di questa cosa che cosa sono? Che se lui manca questa elezione, fa crack e si va al voto anticipato. Certamente. Beh, perché poi alla fine le cose in politica hanno una logica, non è che sono così quasi matematica. Esatto. Salamino, mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta banda a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Dicon che di crescere. Questa canzone di sicuro la sa cantare uno dei quirinabili più accreditati in questa fase delicata delle istituzioni, e lo nominerò tra poco. Intanto, caro Mario, caro Giovanni, la politica trova le sue strade, quelle non tanto parallele, insomma quelle schizofreniche, ma bisogna darne notizia. Allora, Di Battista lancia Bersani, cioè il Movimento 5 Stelle a sorpresa mette ai voti l'ex segretario del Partito Democratico e precipitano nel gradimento dei grillini tutti i meglio quirinabili del parco Virtù. Chi era? E c'è, certo, figurati, i virtuosi non mancano in Italia. Va giù Raffaele Cantone, per esempio, che è il magistrato dell'anticorruzione. Va giù Nino Di Matteo, che è il magistrato che indaga sulla trattativa Stato-mafia. Vanno giù Imposimato, Paolo Maddalena, Zagrebelsky. Sparisce Rodotà, ma fa capolino. Lo vedrebbe chiunque che Luigi sono io, no? Allora lui, io sono il vero Luigi. Sono io, Luigi. Andiamo al circolo. Signor Magali, per favore, basta. Ah. Luca, non fare il cretino, sono io Luigi. Signor sono Magali, io il vero sono Luigi. Luigi. Fa la canna, sì. E dai. È lui quello che famiglia, quindi sì. Mi sono fatto pure i risvoltini e i pantaloni, ma signor Magali. Se... sono io Luigi, lo vedi che sono io Luigi. Non devi sparare a me, da una vita. Lui, io sono il vero Luigi. Chi lo conosce questo qua? Dimmi qualche cosa che sa solo Luigi. Vuoi la prova? Turbo fregna. Allora, signor Magali, per favore. Fa capolino Magalli. Magalli che ha concesso oggi al Corriere una bellissima intervista, autorevole come neppure Sergio Mattarella saprebbe fare. Fa dunque capolino Magalli, ma stracciando perfino Romano Prodi, che come giustamente tu hai notato sarebbe una bella cosa, una bella mossa, una bella nello scacchiere, vince tra i grillini il quirinabile tra i più quirinabili, Pierluigi Bersani, proclamato a più riprese, lo ricorderete? Oh, che umiliazione, birba! È tutto il giorno che andiamo a caccia di puffi e non ne abbiamo catturato neanche uno. Purtroppo anche stasera dovremo mangiare la minestra di cavoli. Ah, cavoli, che schifo! Darei qualunque cosa per avere un colpetto di fortuna. Che cos'è? Beh, allora, le votazioni online si chiudono oggi alle 14. Lo ricordiamo agli ascoltatori, se volete votare coi 5 Stelle, farvi 5 Stelle, stellarvi anche voi. Ma la risposta dell'ex leader del Partito Democratico l'ha già scritta, anzi disegnata Vauro in una vignetta che dice tutto. No, vi prego, un altro streaming con i 5 Stelle, no. Ma ci sarà da cantare ancora una volta la canzone giusta, perché è sempre questa l'Italia dove con la SPAC che va all'isola e magari al Quirinale canteremo tutti il corazziere. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta banda a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Dicon che di crescere non mi... Mario, ancora una bolla, dai, a bolla. Sul topolino amaranto, dai, siedimi accanto che adesso si va. Allora, parliamo di Fiat, Fiat Lux. Lo facciamo perché, secondo me, come detto, Fiat Dux. Lux. Avevo capito Dux. Dux, avevi capito, lo so che tu capisci sempre il Dux. Ma va bene Lux anche. E Fiat sia, dunque. Perché, insomma, secondo me forse è il caso di far vedere che le cose poi hanno un senso quando arrivano al medio termine, non per forza subito. I giudizi forse debbono essere dati con un po' più di cautela quando si valutano soprattutto imprese globali. E cioè, ragazzi, il gruppo FCA Fiat è una cosa che va bene, cioè, può piacere o meno, ma questo è tornato all'utile in Europa, fa utile in tutte le aree geografiche, tanto per cominciare. Insomma, i ricavi fa 96 miliardi di dollari in ricavi. Guadagna 3.2 miliardi di dollari. Nel vecchio continente è tornato all'utile. Sai da quando non succedeva che la Fiat andasse in utile in Europa? Da quando? Secondo trimestre del 2007. E adesso che si fa? Vabbè, adesso speriamo che continui. No, voglio dire, perché sì. Marchione è stato trattato come il nemico del popolo, l'uomo da battere, quello che ne avrebbe fatto chiudere gli stabilimenti. Gli stabilimenti fanno la Jeep e la nuova 500, non li ha chiusi, ha mantenuto la produttività mentre tutti gli altri chiudevano. Forse un po' di autocritica dai critici, io me l'aspetterei. Senti questo messaggio per te. Pittrice di Prato, il tuo compleanno, è vero, sai che è molto sexy, non solo nella voce, ha un fascino misterioso e un grande cervello intuitivo. Per il giorno del compleanno. Allora, voi state rischiando pubblicità. La vita, voi due. Pubblicità. Mix 24. Prima del canzoniere, Leonardo ci scrive: io mi chiedo, ma perché non partono subito dal quarto scrutinio? Bisogna cambiare la Costituzione. Mi sembra che sia una domanda che sta nell'aria. Canzoniere. Non credo nulla a nessuno io. Sono senza un amico, ma non un amico che sappia raccontare la mia storia, un amico che mi preceda dappertutto per evitarmi quelle spiegazioni che m'ammazzano. Non c'è una che sappia gustarmi. Ah sì, un'infermiera per amor dell'arte che conceda i suoi baci soltanto ai moribondi. Beh, stupendo. 800 24 00 24, numero verde, sms 349 238 6666. Salamino. Altro che Quirinarie però, è vero, importante sapere quale sarà il futuro Presidente della Repubblica, però la vera questione è la nomina del nuovo direttore al Corriere della Sera. Tutti in piedi. Un assai informato, lo ripeto per la terza volta, un assai informato pezzo di Silvia Truzzi oggi sul Fatto riferisce di un'operazione commerciale assai delicata assai negli esiti politici e culturali. Addirittura. Sì, culturale. Perché si prepara la fusione tra Rizzoli e Mondadori. Che libri. Di cose serie stiamo parlando. No, perché? Di, appunto, io, per esiti politici e culturali. Mondadori sarei. E ora sei diventato autore Rizzoli. Non lo sapevo. Non si sa chi incorpora chi. No, si sa. Perché parlano i numeri. E siccome i numeri, i soldi sono quelli di Mario. Sono quelli di Segrate. L'operazione farà di fatto della famiglia Berlusconi il più potente tra gli editori. E il primo segnale è nel passaggio, ma i fatti sono legati quelli delle due operazioni editoriali e del Corriere della Sera, perché il primo segnale è il passaggio in Rizzoli di Aldo Cazzullo, autore popolare nonché firma principe del Corriere della Sera. Stava in Mondadori, adesso invece esce con Rizzoli ed è appunto accreditato tra i papabili alla successione. Ma non è l'unico trasloco. Al posto di Ferruccio. Alla rete dei venditori è stato presentato il libro dedicato alla regina dei salotti romani, a Maria Angiolillo. E il colpo è un più che colpo, perché c'è una doppia firma. C'è quella di Candida Morbillo, che è una è stata direttore di Novella 2000, sì, quindi una giornalista di grande esperienza. Ma poi chi c'è? Non lo so. C'è Bruno Vespa, che è bandiera storica di Mondadori e che quindi torna in libreria col marchio Rizzoli. Insomma, la morale: fecero pace i cani e le lupi, povere pecore, sventurate capre, ma tutto ciò non può che rallegrarci ed è troppo very well. Ma veramente, veramente questo giorno del tuo compleanno, Mario, svela la miriade delle tue ammiratrici. Ah, sentiamo, sì, allora, molto interessante. Adesso è il momento di Tina. Su Secchi concordo su quanto detto dall'ultima ascoltatrice che aveva detto quelle cose. Ti ringrazio tanto. Lo penso dai tempi del tempo, fin da allora. Pur non sentendo la tua voce, era però la immaginava. Come sexy. Si chiama questa? Si chiama Tina, il numero non l'ha messa. Non l'ha messo il cellulare. Ma se non mette il cellulare, il primo messaggio di chi era, che non lo ricordo, di una signora che ho segnato il nome, Maila. Vabbè, però, adesso stai facendo raccolta, va bene, vogliamo giocare. Allora, signore, lasciate il numero di telefono, va bene altrimenti non vale. Adesso degenera, lui degenera subito, non c'è problema. Scusate, anche su Twitter vorrei dire va bene più. Su Twitter? Su Twitter tutti fanno tutti gli auguri, facci sta bolla, ma sempre con questa chiave. Non vi preoccupate, tanto la vendetta è un piatto che si serve freddo. Gelido. Quindi ci sono molte puntate per consumare la mia su di voi. Vai. È fantastico, questo è un pezzo da ballare. Blame di Calvin Harris. Regia, ce lo fai sentire quando pompa tra un po', boom boom boom. Cosa facciamo? Non me lo fai sentire? È il mio compleanno, ma lo voglio. Allora, parliamo un po' di numeri dei titani della rete. Dopo il record di Apple e gli ottimi guadagni di Facebook, come sapete, e le ottime proiezioni future di Microsoft, oggi è il momento darà sicuramente dei numeri anche Google, e vediamo cosa farà il gigante di Mountain View. Intanto segnalo che c'è una bella sfida in corso, perché Amazon lancia un servizio per imprese potenziato su email e il calendar, cioè sull'agenda. È un'appassionante sfida, molto molto bella da vedere, è il futuro, anzi è il presente di un gran pezzo dell'economia. Noi lo guardiamo soltanto, però vedremo. Questo mi lascia molto un po' di amaro, diciamo. Per la terza puntata sulla storia dell'Olocausto, oggi l'interrogativo è: chi sapeva del piano di sterminio contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale? Mix 24, con la storia curata da Marina Milone, rispondiamo a questo interrogativo. Dopo il GR, un documento storico unico, la testimonianza di Jan Karski, il corriere polacco che cercò di avvisare i grandi del mondo di quello che stava succedendo nei campi di sterminio, arrivando fino al presidente americano Roosevelt. Sentiamo la sua versione dell'incontro. Roosevelt fu molto gentile, ma principalmente era interessato alle questioni politiche. Mi fece parecchie domande sugli ebrei, chiedendomi cosa avevo visto e se potevo fornire delle statistiche, eccetera. Si limitò a dire che quando sarei tornato in Polonia avrei dovuto riferire ai miei capi che i confini della Polonia nell'est sarebbero cambiati. La Polonia sarebbe stata ricompensata con i territori tedeschi. Mi disse che dovevo dire loro che avremmo vinto questa guerra e che finalmente, dopo la guerra, i colpevoli sarebbero stati puniti. Dopo il giornale radio racconteremo la storia del chi sapeva. Adesso si è aperto un contenzioso tremendo, perché qualcuno scrive: per me il più sexy è sempre Pietrangelo. Bene, Pietrangelo, ti sfido a duello. Lucio Dalla, futuro. Tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetto, più su, nel silenzio tra le...